24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. L'appuntamento con 24 ore in Europa si apre ancora una volta con la crisi in Libia. Un aereo di Gheddafi è stato abbattuto da un caccia francese nella zona di Misurata. Si è trattato del primo tentativo del colonnello di violare la no-fly zone imposta dalla coalizione che continua i suoi attacchi. Secondo il regime ci sarebbero già 100 morti tra i civili, ma anche i ribelli denunciano vittime delle truppe fedeli a Gheddafi. Sul fronte diplomatico sembra ci siano aperture da parte della Francia. Il primo ministro francese, François Fillon, ha manifestato infatti una posizione molto più conciliante sul ruolo della NATO nell'operazione in Libia. E a Lampedusa continuano gli sbarchi. La Spagna, in accordo con la Francia, promette sul fronte immigrazione l'Italia non sarà lasciata sola, ma a Lampedusa la situazione è sempre grave. Navi militari, caccia che frecciano in cielo diretti in Libia, 1000 tunisini che si accalcano sulla banchina in attesa che mezzi anfibi ne imbarchino la metà, mentre a pochi metri da loro altri 80 migranti toccano per la prima volta il suolo europeo. Scene di Apocalypse Now mediterranea, scene di guerra nella guerra, i tunisini in fuga sull'isola dei famosi, come l'hanno ribattezzata i lampedusani. Pure i politici sono in guerra, Lombardo il governatore contro Maroni, il sindaco di Mineo dove arriveranno oggi 550 migranti salpati con la San Marco contro tutti. I patti erano altri, dice, a Mineo solo i richiedenti asilo, ma i patti in guerra sono scritti sulla sabbia. E il governatore lombardo, caduto in trappola, chiede aiuto nell'ordine a Napolitano, Berlusconi e persino all'intero Consiglio dei Ministri. Oramai è chiaro, Lampedusa e Mineo pagheranno il prezzo più alto di questa emergenza umanitaria. Sicilia, bel Sud d'Africa. Mariano Maugeri, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Lampedusa. E molti dei minorenni tunisini che sono sbarcati da soli a Lampedusa chiedono di andare in Francia. Sentiamo Mariano Maugeri con un ospite che si occupa proprio dei ragazzi arrivati sull'isola. E siamo al porto vecchio di Lampedusa. Com'è Ofida? È un ragazzo siriano di 28 anni, studia lingue a Roma da 4 anni, è ovviamente arabo ed è stato chiamato a Lampedusa per, come dire, come mediatore culturale. Allora Ofida, cosa ti ha colpito di questi ragazzi? Quali erano le loro richieste? Perché ho visto che ti circondavano imploranti quelli che per esempio non sono riusciti a salire sul pullman che poi li avrebbe accompagnati al traghetto. Ne sono rimasti ancora quasi 200. Tutti mi chiedevano quando partiamo e quando partiamo dove andiamo. Ecco, mi dicevi però che ti ha colpito come mai abbiano avuto il coraggio questi ragazzini, alcuni hanno 12, 13, 14, 15 anni, 16, affrontare una traversata. Ho parlato con uno, mi ricordo, e mi sa che è scappato da casa e è uscito. E ci sono tanti altri come lui. È vero che molti hanno intenzione di raggiungere la Francia, dove hanno dei parenti, degli amici che li aspettano? La maggioranza di tutti, perché prima, il primo motivo è la lingua, in Tunisia parlano francese, e il secondo che saranno sicuri che c'è qualcuno, cioè li ospita. E a Bruxelles, vertice dell'Unione Europea, che ha tra gli argomenti all'ordine del giorno, oltre ai temi della governance economica, la Libia e la situazione in Giappone. In primo piano, dopo le dimissioni del premier José Sócrates, anche la crisi in Portogallo. Così a riguardo anche la Merkel. Wir haben einen wichtigen europäischen Rat, auf dem wir ein Gesamtpaket zur Stabilisierung. Si tiene un Consiglio europeo molto importante, dice la cancelliera tedesca, nel quale chiuderemo un pacchetto complessivo per la stabilizzazione dell'euro. Naturalmente ci occuperemo anche della situazione in Portogallo. Il premier portoghese specifica, la cancelliera tedesca, ci aveva presentato un piano molto ambizioso per il triennio in corso. Tutti coloro che avranno in mano le redini del Portogallo si devono riconoscere negli obiettivi di questo programma per ottenere la fiducia dei mercati. Sulla Libia, ha detto infine anche la Merkel, dobbiamo arrivare ad un embargo complessivo sul petrolio in modo che chi bombarda il suo popolo non possa più fare affari con nessuno. E a Bruxelles i 27 leader europei sono chiamati a varare un maxi pacchetto di riforme economiche per l'Unione Europea e l'Eurozona. Al microfono di Sergio Nava, Marco Buti, direttore generale della DG Ecofin della Commissione europea, spiega come questo pacchetto di riforme potrà, nelle intenzioni, rafforzare la governance economica comunitaria. C'è sui mercati un certo scetticismo, questo è anche comprensibile per certi aspetti. Se guardiamo tuttavia quello che emergerà dal Consiglio europeo di oggi e domani, così come dalle decisioni già prese, emerge un quadro di coordinamento delle politiche economiche molto molto più forte di quello che avevamo prima della crisi. Abbiamo sistemi di sorveglianza, di vigilanza sui mercati finanziari con le nuove autorità, avremo un nuovo patto di stabilità che è più vincolante, avremo anche col patto di competitività più coordinamento sulle questioni delle politiche strutturali. Si tratta di rilanciare l'economia europea per creare più occupazione e più crescita. Abbiamo adesso e avremo gli strumenti per farlo in maniera più efficace. Le scadenze sono chiare. Noi puntiamo ad avere un accordo sul cosiddetto pacchetto sulla governance economica per giugno. Rimaniamo a Bruxelles, dove incidenti si sono verificati nel corso dell'euromanifestazione dei sindacati europei che hanno invaso le vie dove hanno sede le istituzioni comunitarie. I tafferugli sono iniziati quando alcuni manifestanti hanno cercato di forzare il blocco che isola l'area Schuman, cioè il quartiere europeo. Edoardo Farrauto, della Confederazione dei sindacati del Belgio, sempre al microfono del nostro inviato Sergio Nava, spiega il perché della protesta. Perché le piani di austerità dell'Europa, noi in Belgio saremmo penalizzati per rapporto a quelli degli altri paesi. Indexazione dei salari, l'anno della pensione, sistemi di prepensione ed moderazione salariale. E cosa volete ottenere con questa manifestazione? Un avvertimento all'europeo per non fare quelle cose qua. Adesso un'altra vicenda che dall'Italia investe l'Europa, il caso Parmalat. Inizia a delinearsi il volto di una possibile cordata italiana che contenda ai francesi di Lactalis il controllo dopo che l'azienda transalpina ha acquistato il 29% del gruppo di Collecchio. Intesa San Paolo sta infatti lavorando con Ferrero per un progetto industriale di lungo periodo, e quanto ha dichiarato l'amministratore delegato della banca Corrado Passera. Sentiamolo. Alcuni presupposti per un'iniziativa valida ci sono. Credo che dare del tempo in talune situazioni a valutare se esistono più alternative di per sé non sia una iniziativa sbagliata. Quando c'è di mezzo il passaggio di controllo di aziende rilevanti, assicurarsi che ci possano essere operazioni di mercato alternative sulle quali poi il mercato deciderà, a me sembra un modo di affrontare la cosa costruttiva, concreta. Confindustria giudica molto bene l'ipotesi di una cordata italiana per Parmalat, lo ha detto il presidente degli industriali Emma Marcegaglia. Chiusura positiva per le borse europee, che terminano la seduta in netto rialzo: Francoforte dell'1,98%, Parigi dell'1,41% e Londra dell'1,47%. Anche a Milano indici positivi: il FTSE All Share ha chiuso a più 1,43%, il FTSE MIB a più 1,50%. Fiat è stata la migliore del FTSE MIB nella seduta di borsa, caratterizzata da un settore auto particolarmente vivace e da acquisti anche su materie prime tecnologici operatori della grande distribuzione. Il più 5,1% della casa torinese è figlio dell'effervescenza del comparto, più 3,2% a livello europeo, e del buon recupero degli ordinativi auto negli Stati Uniti a febbraio, e permette al titolo di proseguire nel recupero dopo che il disastro giapponese lo aveva spinto sotto quota 6 euro. In fondo al FTSE MIB invece la Banca Popolare di Milano. Le indiscrezioni su un aumento di capitale fino a 600 milioni, che sarà proposto la prossima settimana dal presidente Massimo Ponzellini, hanno fiaccato le azioni dell'istituto, che ha perso il 3,6%. In discesa anche Mediaset, meno 2,1%, colpita dai realizzi, e Fondiaria Assai, meno 1%. Da Radio Cor, Andrea Fontana per Radio 24, il Sole 24 Ore. La Corte Europea dei Diritti Umani ha assolto l'Italia sul caso della morte di Carlo Giuliani, il giovane morto durante gli scontri del G8 di Genova nel 2001. I genitori di Carlo dicono: non ci arrendiamo. Le autorità italiane non hanno avuto alcuna responsabilità nella morte di Carlo Giuliani. Lo ha stabilito la Grande Camera di Strasburgo, una sorta di secondo grado della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. A fare ricorso erano stati i genitori di Carlo, secondo cui a sparare al ragazzo in Piazza Limonda il 20 luglio 2001 fu sì il carabiniere Mario Placanica, ma a giocare un ruolo sarebbero state sia l'inadeguata organizzazione delle forze dell'ordine presenti a Genova, che le regole d'ingaggio, che non impongono l'uso di proiettili di gomma per il mantenimento mantenimento dell'ordine pubblico durante le manifestazioni. La famiglia Giuliani sostiene inoltre che le autorità non hanno condotto un'inchiesta adeguata per accertare le cause della morte del ragazzo, sollevando dubbi anche su come sia stata eseguita l'autopsia. In prima istanza la Corte di Strasburgo aveva accolto solo parzialmente le tesi dei Giuliani, condannando l'Italia per il modo in cui è stata effettuata l'inchiesta, mentre aveva pienamente assolto Placanica, che secondo i giudici agì per legittima difesa. Ci rivolgeremo al Tribunale Civile, non ci arrenderemo, ha commentato il padre di Carlo, Giuliano Giuliani. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E parliamo dei fondi per la cultura, che il Consiglio dei Ministri ha riportato ai livelli dello scorso anno. Ma c'è anche una brutta sorpresa. I soldi arriveranno dagli aumenti della benzina, aumenti che non toccheranno coloro che utilizzano auto elettriche. Proprio questo weekend Parma ospiterà una fiera e una particolare maratona di auto elettriche. Laura Bettini ha intervistato il presidente dell'associazione culturale Ragnarok, che ha organizzato l'evento. L'ho raggiunto però in un'altra città europea. Marco Germinario, io la raggiungo a Copenaghen per parlare di veicoli elettrici, ma lei lo sa che in Italia intanto sta aumentando la benzina per poter dar soldi alla cultura? Sì, l'ho sentito vagamente. Tra l'altro qui in Danimarca hanno fatto una cosa, hanno direttamente tassato le macchine. Sono già da circa 20 anni che mettono delle tasse del 300% sul valore delle macchine. Lei in Danimarca per una manifestazione che arriverà a Parma sabato all'interno di una mostra di veicoli elettrici, ci spiega di che si tratta? Il concetto è che una sfilata, una maratona di veicoli elettrici di qualunque tipo girano per le strade della città e durante il tracciato tracciano la sigla CO2 nelle strade. È stato ideato da un artista danese, Jakob Fulsang. L'anno scorso l'abbiamo fatta a Milano e poi ci ha contattato la Senas, che è l'azienda che organizza questa mostra di veicoli elettrici, e ci ha proposto appunto di portare questa performance artistica durante la loro fiera. E secondo me l'idea è eccezionale, perché appunto unisce la cultura al business. Senza tassare il cittadino. Passando al cittadino, anche cercano di ispirare il cittadino, insomma. Per il calcio oggi Slovenia e Italia in campo per le qualificazioni Euro 2012 ed è allarme ultras. Lo stadio Stožice è tutto esaurito nei suoi 16.000 posti. 300 tifosi italiani, di cui una cinquantina di ultra Italia. La possibile infiltrazione di supporter serbi pronti a vendicare quell'Ivan Bogdanov arrestato e condannato a 3 anni e 3 mesi per gli incidenti che portarono alla sospensione di Italia-Serbia lo scorso ottobre a Genova. Mix potenzialmente esplosivo quello che aspetta gli azzurri sulle tribune di Lubiana. Come non bastassero già Ilicic e compagni a creare grattacapi in campo. L'allerta resta elevato, con controlli congiunti tra polizia italiana e locale su tutta la frontiera slovena. Il Viminale poi ha deciso l'invio di 8 poliziotti e 10 steward dedicati soprattutto proprio al controllo degli ultra Italia, protagonisti di intemperanze e cori razzisti nelle ultime trasferte azzurre, da Sofia a Klagenfurt a Dortmund. I precedenti non sono incoraggianti, basti ricordare gli incidenti a Trieste durante l'amichevole del 21 agosto 2002. Anche allora alleati agli ultra sloveni, ce n'erano molti arrivati apposta da Belgrado. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 Ore in Europa. Grazie per l'ascolto e una buona giornata da Roberta Pellegatta. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.